Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Benedetto XVI è partito giovedì per un viaggio pastorale in Gran Bretagna. Il viaggio si concluderà domani e rappresenta senza dubbio uno dei viaggi più impegnativi per il pontefice, che, invitato direttamente dalla regina, si trova a parlare in una nazione a maggioranza anglicana, molto guardinga verso l'autorità religiosa di Roma e scossa dallo scandalo pedofilia. 28 anni dopo la visita pastorale di Giovanni Paolo II, questa volta un pontefice romano sbarca in Scozia e Inghilterra, invitato direttamente dalla regina. È forse il viaggio più difficile per Papa Ratzinger, dicono in Vaticano, e ne spiegano il motivo. Benedetto XVI deve proporre a un paese secolarizzato e da secoli ostile al cattolicesimo e al Papa la ragionevolezza del credere cattolico e dunque degli insegnamenti cristiani. E lo deve fare in un paese che, se sulla carta vuole garantire pari opportunità a tutti, nella pratica spesso osteggia chi crede, ledendo così il concetto stesso di libertà religiosa. Luigi Accattoli, vaticanista, era sul volo che portò Giovanni Paolo II nel Regno Unito nel 1982. Dice: «La sfida per Ratzinger non è semplice». Ma così fu anche per Wojtyła, quasi 30 anni fa. Giovanni Paolo II arrivò in Gran Bretagna mentre il paese era in guerra con l'Argentina per le Falkland. Parlò di pace e ne spiegò le ragioni alla luce della fede. Parlò della necessità di vivere la fede dentro le scelte pubbliche di tutti i giorni. Parlò chiaramente e, sorprendentemente, ricevette consensi. L'antipapismo era vivo anche allora, ma la fede e il credere annunciati senza paure colpiscono. E così credo possa essere per Benedetto XVI. Prima in Scozia per l'incontro con la regina e la comunità cattolica del paese, poi a Londra per gli incontri più istituzionali, infine a Birmingham per la beatificazione del cardinale John Henry Newman. La Quattro Giorni del Papa nel Regno Unito è un tour de force con due appuntamenti più attesi degli altri. Il discorso di venerdì pomeriggio alla società civile, al mondo accademico e culturale, ai diplomatici e ai leader religiosi nella Westminster Hall di Londra e l'omelia per la beatificazione di Newman domenica mattina. Il tema del discorso alla società civile ha avuto una sua anticipazione il 2 febbraio scorso, quando il Papa ricevette in Vaticano i vescovi inglesi. Benedetto XVI non usò un linguaggio politically correct e infatti le critiche piovvero copiose da oltre la Manica. Davanti a sé il pontefice aveva i vescovi inglesi, ma il vero obiettivo erano coloro che portavano avanti nel paese una legislazione fortemente restrittiva per le ragioni di chi crede. Il Papa alluse all'Equality Bill, cioè alla legislazione britannica che in nome della non discriminazione costringe le agenzie cattoliche a concedere l'adozione di bambini anche a coppie di omosessuali. Con un rimprovero implicito ai vescovi inglesi sovente troppo accomodanti, Ratzinger disse che se il Regno Unito è ben noto per il suo saldo impegno nell'assicurare pari opportunità per tutti i membri della società, tuttavia l'effetto di una certa legislazione per raggiungere questo obiettivo è stato l'imposizione di limitazioni ingiuste alla libertà di agire, secondo il proprio credo, a comunità religiose. E ancora, la fedeltà al Vangelo non limita in alcun modo la libertà di altri. Al contrario, è al servizio di quest'ultima perché offre loro la verità. Concetti che, trapela dal Vaticano, saranno presenti nelle prossime ore nei discorsi papali. Benedetto XVI, come ormai abitudine consolidata, incontrerà durante il viaggio alcune vittime dei peccati carnali del clero. Sarà un gesto importante e servirà anch'esso per dire che la fede, nonostante le cadute, può ragionevolmente essere abbracciata da tutti. Non sono i peccati dei preti che devono far retrocedere i credenti. La fede, nonostante il peccato, deve ancora oggi pretendere il proprio spazio nella vita pubblica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Rodari, Il viaggio più difficile di Benedetto XVI, pubblicato dal Foglio giovedì 16 settembre. In In Italia l'età media di chi si laurea è di 27,3 anni, un po' troppo grandicelli per aver ottenuto una semplice laurea generalista. E infatti l'Italia è l'unico paese dove i giovani disoccupati laureati sono in numero maggiore dei loro coetanei meno istruiti. Sembra che l'agognata laurea si sia ridotta al famoso pezzo di carta. Le inquietanti statistiche sull'occupazione giovanile pubblicate in questi giorni dimostrano, tra gli altri, il fallimento della laurea generalista, ovvero la cronica disoccupazione che si abbatte sui laureati a 28 anni senza specializzazione. Basta guardare i dati. Quelli Istat ci dicono che un giovane su quattro non trova lavoro, mentre da quelli di Data Giovani, pubblicati qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, emerge che, seppure il 36% dei nuovi posti di lavoro riguarderà gli under 30, l'occupazione giovanile polarizzerà attorno a due figure: quella dei laureati iperspecializzati, che parlano lingue straniere e sono esperti nei settori più innovativi della produzione, e quella dei giovani che non hanno paura di rimboccarsi le maniche e sono pronti a svolgere un lavoro tecnico, artigiano o agricolo e si sono formati sul campo, negli istituti professionali come nei laboratori artigiani. Si tratta di una tendenza che non deve stupire e che si rafforzerà nel corso degli anni. Perché, come dimostrano tutte le statistiche, la crescita del nostro PIL è indissolubilmente legata all'andamento delle esportazioni e, come emerge da tutti gli studi sulla globalizzazione, per avere successo nella competizione globale, le imprese devono avere la capacità di esportare in tutto il mondo i prodotti locali della nostra straordinaria cultura. Così si spiega il successo internazionale della Ferrari, come la grande richiesta di mozzarella di bufala e vini piemontesi, le vendite della nostra moda e, più in generale, le visite del padiglione Italia all'Expo di Shanghai. Nel mezzo, ovvero tra i disoccupati e gli inattivi, sono destinati a rimanere i bamboccioni, o meglio, quelli che si laureano a 28 anni, che non hanno un master e non parlano lingue straniere, e spesso rimangono a casa con i genitori anche oltre i 30 anni. Perché per competere sui mercati internazionali le imprese non hanno bisogno di neolaureati trentenni che non hanno competenze specialistiche, ma snobbano il lavoro tecnico come quello manuale. E infatti l'Italia è l'unico paese europeo in cui il tasso di disoccupazione dei giovani laureati maschi è maggiore di quello dei coetanei con un livello di istruzione inferiore. Purtroppo si tratta di un dato terrificante perché ad oggi l'età media di chi si laurea è di 27,3 anni, e chi si laurea con più di 5 anni di ritardo è in media il 17%. Insomma, le statistiche ci dimostrano che se vogliamo avere un futuro e sconfiggere la disoccupazione giovanile, dobbiamo cominciare sfatando il mito secondo cui basta una laurea generalista a 28 anni per trovare lavoro. Ma servono piuttosto mestieri e professionalità, poco importa che siano intellettuali o manuali, che siano stati acquisiti sul campo o nelle università. L'importante è non averci messo troppo tempo. Avete ascoltato l'articolo La laurea generalista? Solo un pezzo di carta, pubblicato dal Sole 24 Ore martedì 7 settembre. Letture di Radio 24. Tre anni felici con una moglie molto più giovane, un bambino bellissimo. Poi un giorno lei gli dice che deve andarsene e lui sa che assieme al suo grande amore perderà anche il bambino e decide di scrivere una lunga lettera a quella che sta per diventare la sua ex moglie. In un romanzo semi-autobiografico, Vito Bruno racconta il dramma di un padre separato in un paese dove la legge privilegia sempre il ruolo della donna. Non mi sono arreso. Ci ho provato ancora a dormire. Ci sono anche riuscito per qualche minuto, ma poi mi è sembrato di sentire un rumore accanto al letto, un respiro nella culla e ho fatto un salto sulle lenzuola arroventate. Mi sono alzato a controllare e con il cuore in gola ho trovato ciò che sapevo. Un orsacchiotto su un cuscino. E basta. Me lo sono immaginato mio figlio nella tua stanza a Taranto, nel lettino accanto al tuo, e me lo sono visto in quel modo strano che certe volte ha lui di dormire, in ginocchio, con il culetto in punta e la testa affondata nel cuscino. Anche tu ti sei preoccupata che respirasse male o non respirasse affatto. Sapessi quante volte ho provato a fargli cambiare posizione. Niente da fare. Dopo qualche secondo, Dopo qualche manovra puramente diversiva, ecco che puntava di nuovo il culetto in aria e di nuovo sprofondava la testa nel cuscino. Restavo ancora lì, a controllare alla luce fioca della lampada da notte azzurrina. Aspettavo che finalmente trovasse una posizione più naturale e mi incantavo a guardare il suo profilo ricamato sulle lenzuola. Il nostro bambino. Il mio bambino. Mi sono premuto un cuscino in faccia e sono tornato a quella notte di metà marzo, quando, dopo l'annuncio del mattino, «Non provo più per te quello che provavo 6 anni fa», avevi aggiunto che volevi andare via di casa. «E mio figlio viene con me». In quel preciso momento hai smesso di essere mia moglie e sei diventata la mia nemica. Un passaggio di campo immediato che non prevedeva alcuna possibilità di ritorno. Sai, ci ho pensato spesso in quei lunghi mesi di calvario e sono arrivato alla conclusione che quella che tu chiamavi la legge aveva giocato un ruolo fondamentale sia nella tua trasformazione fulminante che nella fine irrimediabile del nostro matrimonio. Ti aveva dato un potere immenso in mano, un potere che tu non avevi mai avuto in vita tua e di cui adesso ti stavi inebriando. Avevi una pistola puntata alla mia tempia e potevi fare quello che volevi. Potevi decidere tranquillamente non solo del tuo destino, ma anche del mio e soprattutto del destino di nostro figlio. Gli avvocati a cui in questi mesi mi sono rivolto per avere lumi sulla mia situazione mi hanno spiegato che la ratio della legge è quella di tutelare i figli. Che stronzate immane! Azzoppare un uomo che in un colpo solo perde non solo la moglie e passi, ma anche i figli e il suo spazio vitale e affettivo, vuol dire tutelare i figli? Annichilire un uomo che in una settimana perde 10 kg, portarlo sull'orlo della distruzione psichica, vuol dire tutelare i figli? Far sparire dall'oggi al domani un uomo dal proprio orizzonte domestico per buttarlo in qualche posto anonimo, fuori dalla sua storia e dalle sue coordinate esistenziali, vuol dire tutelare i figli? Vedere una madre amoreggiare con un altro uomo, profanare quello che fino al giorno prima era stato un talamo coniugale, vuol dire tutelare i figli? Non avrebbe avuto più senso che una donna nello stato di grazia di un nuovo amore, quindi piena di forza e di energia, in una fase espansiva della propria vita, cercasse lei il suo futuro fuori dalle mura di casa, al riparo dagli occhi dei figli piccoli che non possono capire certi giochetti sentimentali? Non avrebbe più senso lasciare a un uomo provato la possibilità di godere almeno della vicinanza dei figli e del proprio universo domestico, specialmente quando si tratta del più affidabile, disponibile e presente dei padri? Non si andrebbe incontro così a soluzioni più eque e giuste, e quindi più accettabili? D'accordo, tu dici che la donna è il più delle volte la parte debole del rapporto. D'accordo, ci sono delle bestie in giro, uomini brutali e selvaggi che odiano le donne. Lo so benissimo anch'io e li detesto come se non più di te. Ma perché devo pagare per loro? E poi, secondo te, è sinonimo di emancipazione per le donne usare i figli come fondamento di un potere, che di questo si tratta, brutale e arbitrario potere, da usare contro chi hanno amato? È dignitoso? È etico? È sinonimo di coerenza e di autonomia usare i figli come grimaldello per cacciare gli uomini dalla loro vita e impossessarsi delle loro case, del loro vissuto, dei loro affetti, del loro denaro? Come ci si deve sentire a muoversi in un mondo estraneo che si è estorto speculando sui sentimenti più elementari e sacri? È come giocare una partita truccata in cui uno dei giocatori ha le regole e l'arbitro dalla sua parte. Chissà se tu ti saresti comportata alla stessa maniera se avessi saputo che nulla era scontato, che avresti dovuto trattare e guadagnarti tutto. Mio figlio, la casa e un appoggio, sia pure assai modesto. Forse sarebbe andata alla stessa maniera, ma almeno ci sarebbe stata una maggiore riflessione da parte tua, una maggiore consapevolezza. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Vito Bruno, L'amore alla fine dell'amore, una lettera dalla parte dei padri. Elliott Editore, 192 pagine, 14 euro. Spesso capita che le donne, dopo aver avuto un figlio, si trovino senza lavoro, ma alcune di loro hanno imparato a reagire, trasformando la maternità in un business. Ci chiamano Mamme Archimede, forse perché abbiamo conciliato l'impossibile, lavoro e famiglia, bambini e business. E se penso che l'idea di 40 settimane è venuta a Silvia e a me mentre passeggiavamo al parco con i nostri figli piccoli, racconta Paola Ottavis, ancora non riesco a credere che quest'anno in piena crisi le nostre magliette e i nostri biberon abbiano fatturato oltre 1,5 milioni di euro. Storia di mamme inventrici e di invenzioni che conquistano il mercato. Di donne che dopo la nascita di un figlio cercano nuove strade professionali, ma anche di giovani mamme che, tornate al lavoro, si ritrovano emarginate o addirittura costrette ad andarsene. Come Luisa Orsi e Sabina Trevisol, espulse dalle loro aziende dopo la maternità. E oggi felici neoimprenditrici di Natural Mamma, pannolini lavabili ed ecologici in netta ascesa sul web. O Paola Ottavis e Silvia Neirotti, un passato nelle multinazionali, poi dopo la lunga pausa delle gravidanze, la voglia di una vita più a misura di famiglia e il salto, anzi il sogno, verso un lavoro in proprio che diventa in breve tempo un fortunato progetto imprenditoriale. Una nuova frontiera del lavoro femminile, così come l'ha definita alcune settimane fa il Los Angeles Times, pur con il sottotitolo scherzoso di Mamme Archimede, citando diversi esempi di inventrici americane diventate businesswomen brevettando creazioni nate dalla fantasia e dalle necessità casalinghe. Un giro d'affari ancora tutto da stimare, ma che con l'e-commerce ha trovato inaspettate autostrade di successo. E dalla fascia a porta bebè copiata alle donne andine, al biberon che si scalda da solo, dallo sterilizza ciuccio portatile agli eco pannolini in bambù, il baby mercato non sembra conoscere crisi. Ed è un po' questa la storia di Paola Ottavis e Silvia Neirotti, due figlie a testa, torinesi ma trapiantate a Milano e amiche di lunga data, e diventate famose alcuni anni fa con la loro Milk Shirt, una maglietta con un taglio speciale che permette alle neomamme di allattare senza mostrare il seno. Un'invenzione venuta alla luce proprio mentre una dopo l'altra diverse donne in Italia, ma soprattutto in Spagna, venivano allontanate da musei e locali pubblici mentre allattavano i loro bambini perché ritenute scandalose. Una campagna a cui seguì una clamorosa protesta di mamme spagnole che organizzarono una poppata collettiva dei loro piccoli proprio davanti al quadro di Goya La Maya Desnuda. La nostra fortuna, dice Paola Ottavis, è che subito dopo aver brevettato la maglietta e dopo aver avviato un piccolissimo e-commerce su internet, un'azienda di farmaci per il benessere ha creduto nel prodotto e ha iniziato a distribuirlo. A quel punto ci siamo rese conto che nel settore Premaman esistevano dei vuoti di mercato e da lì è iniziata la produzione di 40 settimane, oggetti per la prima infanzia che a sorpresa sta andando benissimo. Sì, è una bella vittoria, ma soprattutto ha voluto dire poter coniugare la vita dei bambini con la nostra vita professionale. È come scoprire di avere una marcia in più, una dote nascosta. Almeno così raccontano il loro business di pannolini ecologici Sabina Trevisol e Luisa Orsi, mamme Archimede, in un nord-est in grave crisi e con decine di fabbriche in via di dismissione. Il nostro prodotto è nato dall'esperienza, spiega Sabina, dalla scelta di non utilizzare per i nostri figli i pannolini usa e getta. Piano piano, attorno alla nostra decisione, condivisa online nei forum di mamme, si è creato quasi un movimento e sempre più genitori ci hanno chiesto di poter utilizzare i pannolini lavabili che non inquinano e si puliscono in lavatrice solo con il bicarbonato. È un business che cresce e ci permette di lavorare senza allontanarci dai nostri bambini. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Novella De Luca, Eco Pannolini, Biberon Caldi, le invenzioni d'oro delle mamme Archimede, da Repubblica del 14 settembre.